Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Neemia, capitolo 4, versetto 1. Quando Sanballat seppe che noi ricostruivamo le mura, si adirò e si indignò grandemente. Si fece beffe dei giudei. Le critiche e l'opposizione sono inevitabili nella vita, specialmente quando cerchiamo di fare qualcosa di significativo. Può trattarsi di un obiettivo personale, di una relazione da restaurare o di una missione per servire Dio. Neemia affrontò una situazione simile mentre guidava la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Le beffe e gli attacchi di Sanballat riflettono i modi in cui anche noi oggi affrontiamo lo scoraggiamento. Tuttavia, Neemia è un esempio luminoso di come rispondere saggiamente, con preghiera, determinazione e fiducia in Dio. Questo passo ci sfida a imparare dal suo esempio quando ci troviamo di fronte a critiche nel nostro cammino. Cerchiamo di comprendere meglio questo passo. Il contesto di Neemia 4 ci colloca in un momento critico della storia di Israele. Gerusalemme, la città santa, era stata devastata dai babilonesi e le sue mura, che proteggevano sia la sicurezza che l'identità del popolo, erano in rovina. Neemia, coppiere del re persiano Artaserse, ottenne il permesso e le risorse per guidare la ricostruzione. Si trattava di uno sforzo fisico e spirituale. Le mura simboleggiavano la restaurazione del popolo di Dio e la sua rinnovata fiducia in Lui. Tuttavia, la ricostruzione si incontrò una posizione feroce. Sanballat, governatore di Samaria, percepiva quell'impegno come una minaccia alla sua influenza politica ed economica nella regione. Per ostacolare il lavoro, utilizzò strategie come lo scherno e la derisione, cercando di scoraggiare il popolo giudeo e minarne la fiducia nell'opera. In questo passo vediamo come l'opposizione tenti di seminare dubbio e timore nei cuori dei lavoratori. Ma osserviamo anche come Neemia risponda con fede e azione, pregando ferventemente, motivando il popolo e organizzando una difesa mentre continuavano a costruire. Questo episodio illustra come qualsiasi sforzo che glorifichi Dio spesso incontri resistenza, ma anche come la perseveranza, l'unità e la dipendenza da Dio permettano di superare gli ostacoli. Ecco tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passo. Numero 1. L'opposizione è inevitabile nell'opera di Dio. Quando serviamo Dio possiamo aspettarci che il nemico cerchi di scoraggiarci attraverso attacchi esterni o interni. Questo ci ricorda che la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma contro potenze spirituali, come dice Efesini 6, versetto 12. Numero 2. La nostra risposta fa la differenza. Neemia non si lasciò intimidire dalle beffe di Sanballat. Al contrario, portò la situazione davanti a Dio in preghiera e incoraggiò il popolo a continuare il lavoro. Dobbiamo fare lo stesso, rispondere alle critiche e all'opposizione con fede, non con timore. Numero 3. L'unità rafforza l'opera. Neemia guidò uno sforzo collettivo per ricostruire le mura. Questo mostra l'importanza di lavorare insieme come corpo di Cristo, sostenendoci a vicenda quando affrontiamo critiche e opposizione. Quale muro stai ricostruendo oggi nella tua vita? Forse stai restaurando una relazione, servendo nella tua chiesa o crescendo nel tuo cammino con Dio. Ricorda che l'opposizione può arrivare, ma Dio ci chiama a confidare in Lui e non rendere male per male, bensì a mettere tutto nelle sue mani. Preghiamo. Signore, grazie per ricordarmi che la tua opera non sarà sempre facile, ma che vale sempre la pena. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te quando affronterò opposizione. Dammi forza per perseverare, fede per confidare nelle tue promesse e unità con i miei fratelli per continuare ad avanzare nella tua opera. Amen. O